ogni volta ci parliamo. Vedo solo come sei. Ogni volta contiamo. Cerca di lasciarti andare, fosse solo per pensare. Pensa di ascoltare il mare. Cerca di lasciarti andare, cerca di provare a fare. Fosse solo per pensare, pensa di ascoltare il mare. Cerca di lasciarti andare. Cerco solo come sei e ogni volta ci fermiamo.